vi saluto e accolgo l'occasione per parlare del fatto di questa giornata qua a C di Roma, Ponte Galeria. La giornata è iniziata che oggi da solito aprivano alle 8:30 di mattina per andare alla mensa a fare colazioni, al caffè, a vedere quelle che erano gli infermieri. Invece oggi non hanno aperto per niente, ci hanno passato colazioni e hanno detto che non si apre fino a un mezzogiorno, che ce l'hanno, deve rimpatriare. Dopo sono entrati tanti poliziotti, tanti borghesi, là, e hanno cominciato a prendere i ragazzi, prendere verso, saranno 11 di persone fino a quello là, e dopo un altro ragazzo che l'hanno fatto uscire per ultimo. Questo era disperato, quando è venuto, ha rischiato la vita, disperato, ha sbattuto la testa addosso al ferro di rigabbia dove ci troviamo e là si è spaccato tutto il fronte. L'hanno portato in infermeria, ci hanno fatto una medicazione, ci hanno imbarcato tutti quanti insieme. E per la disperazione dei ragazzi, c'era un ragazzo qua, si è cucito la bocca, gli sono venuti pure a prenderlo subito. E dopo, non lo so, niente, ha tolto il filo e ha tolto la cica. Invece c'è stato pure un altro ragazzo che sta facendo sciopero della fame da 6 giorni, sciopero della sete e della fame, che ce l'ha troppo problemi, disperato, rischia il rimpatrio, c'è 2 sorelle qua che stanno, lui che badi a loro, capito, come si occupa della loro vita, sono più piccoli di lui. E quindi sta facendo sciopero per problemi su nazionali, personali, e quindi sono venuti entrati le polizie, finanza, con il medico e lo volevano togliere sciopero della fame. E lui si è preso una lametta e ha detto: io non lo tolgo sciopero della fame, fino a che non mi ha portati fuori di questo posto schifoso, io non tolgo, io non ho fatto un sorriso perché mi devo venare. E quindi all'ultimo niente, si sono andati. E qua c'è una tensione alta, la gente troppo arrabbiata, troppo problemi, troppo casini, oltre questo. C'è stato pure un rimpatrio di un marocchino 2 giorni fa e altri rimpatri volontariamente, capito? Alcuni ragazzi dell'Europa dell'Est hanno detto: noi facciamo parte dell'Europa, quindi perché troviamo un centro d'accoglienza? Dato che non abbiamo carta d'identità presso, non abbiamo carta d'identità scaduta o abbiamo fatto un rialto dal carcere fino qua, ci portano subito. Quindi hanno detto: ce ne andiamo noi da soli, tanto torniamo uguali, siamo comunità europea. Invece gli altri sono disperati, non fanno extracomunitari e quindi vanno là, c'è gente che si è ambientata qua, c'è gente che hanno conviventi, c'è gente che ha fatto la tutta vita qua, capito com'è? Quindi ci vogliono rovinare, qua è un disastro, un posto spiacevole, molto spiacevole, e quindi non sappiamo che cosa. Rimpatri ci sono tutti i giorni, capito? Solo che oggi sono stati un po' di più. A questa stante che lo sto parlando hanno fatto ingressi di due ragazzi georgiani che non parlano nemmeno l'italiano e erano in galera, capito? Come Cinascelli. E erano portati, adesso stanno a fare l'ingresso, 2 georgiani, capito come? Portano gente e fanno entrare altre, capito come? Questi ragazzi qua sono molto arrabbiati, non vedono che cosa devono fare, sono disperati, impauriti, tutti quanti, veramente è troppo. Il loro atteggiamento diciamo che è corretto, diciamo, quello che ti aspetta te lo prende, capito come? Più che altro dipende sempre dal giudice, quello che fa il prologo, capito com'è, degli uffici stranieri, queste fatte dell'uscita. Loro vogliono il servizio e non ci hanno dato fastidio a niente, capito? Come quella che ti aspetta te la prendi, però invece rimane il problema con l'ufficio straniero, si interrompe ogni volta, si entrano, capito com'è, capito com'è, che tipo di prepotenza, capito? Se un medico deve entrare a medicare uno della camera che non ce la fa alzare, scusa, entra il medico. Insegnanti, non c'è bisogno che vieni con lui, diciamo, alla forza dell'ordine, capito? spaventano pure quella che sta male, capito com'è? La capisci magari in un'altra maniera. La gente si sente minacciata, capito com'è? È questo, tutto quanto. Questa 24 su 24, la gente sempre sente minacciata, si sente minacciata. Questo è l'incubo che viviamo, capito? Ci rovinano, capito com'è? Chi lo sa, si sono fermati pure i lavori interni, che stanno preparando altre camere, capito com'è? Che stanno preparando l'aria condizionata, quella cosa, fanno la pintura, gli scarichi. Hanno fatto alcune celle dove ci troviamo noi, adesso invece le altre sono chiuse, capito com'è? Sono una, due, tre, quattro camere chiuse, capito com'è? Cinque, anzi, cinque. Ci sono posti di 40 persone ancora o più, però 5 sono chiusi. Dopo oggi ci saremo a 70, 71, 69, capito come? Femminili ci saranno 25, 24 adesso. Se vogliamo sostegno di qualsiasi persona che può capire la nostra situazione, capito come ci troviamo e che cosa passiamo.